18 minuti primi in ascolto di Radio Default, siamo in onda con Radio Cufia in edizione speciale. Avevamo detto che eravamo in vacanza, ma invece siamo dovuti ritornare di corsa dalle nostre mete vacanziere per dare le nuove, le, vorremmo dire le buone nuove, le cattive nuove su ciò che sta avvenendo in questi giorni nella Palestina occupata. Ricordiamo velocemente i contatti della radio: www.radiodefault.it per trovare il nostro palinsesto e le nostre informazioni e i nostri eventi, Radio Default su Facebook per essere aggiornati in tempo reale su ciò che questa radio trasmette quotidianamente, anche se in questo periodo estivo non troppo quotidianamente, e infine c'è sempre il nostro contatto Skype radio.default che come al solito è staccato, se qualcuno ritroverà la password forse sarà bene. Quindi appunto Palestina sotto attacco, abbiamo visto la... ci siamo lasciati l'ultima volta con l'intervista con i giovani palestinesi e parlavamo proprio di, del rapimento, dell'operazione di cattura di tre coloni a cui è seguita una dura repressione in quella che è la West Bank con arresti di massa e si è arrivati addirittura al sequestro e all'omicidio di un adolescente che è stato preso, gli è stata fatta ingoiare la benzina e gli è stato dato fuoco mentre era ancora vivo, dopo essere stato torturato, questo ad opera di tre coloni fascisti che si sono scoperti poi essere anche membri militanti dell'estrema destra di una curva del Gerusalemme. Quando si è scoperto che i tre coloni catturati erano stati esecutati erano stati subito esecutati e infilati 3 metri sottoterra, avvenimento di cui tutti noi gioiamo, l'entità sionista ha fatto partire l'ennesima campagna di repressione e di distruzione della striscia di Gaza. Diamo un po' di numeri. Dal 6 luglio, da quando è appunto iniziata l'offensiva di Netanyahu, si sono raggiunti la cifra di 212 martiri, di cui 40 bambine, 26 donne e 12 anziani, ed almeno 1500 sono i feriti. Tra cui, tra questi 1500 feriti, almeno 50 bambini. Possiamo dire che quotidianamente ormai vengono bombardati i siti della striscia di Gaza e quando diciamo siti militari lo intendiamo alla versione israeliana, cioè posti dove appunto girano bambini, donne, uomini e via dicendo. Tra l'altro, tra i martiri, mi pare che uno dei martiri, proprio il giorno della nostra ultima trasmissione, è stato ucciso mentre si trovava, è stato vittima di un omicidio mirato, mentre si trovava a camminare per una piazza di Gaza con il proprio carretto che vendeva dolciumi. Ricordiamo mercoledì sera, durante la partita Olanda-Argentina, è stato bombardato un bar uccidendo 13 persone, 13 avventori del bar che si stavano innocentemente guardando la partita, e quindi questo è il succo del discorso. Israele, l'entità sionista, non si fa nessun riguardo nel bombardare civili. Sabato sera è stata la notte delle moschee, come è stata chiamata, cioè sono stati bombardate 8 moschee nel periodo di Ramadan, dopo il tramonto, vengono affollate dai fedeli in preghiera, e quindi appunto un esempio di genocidio di massa. In tutto questo l'entità sionista si sta spacciando anche per essere una brava entità militare. Infatti leggiamo dall'agenzia Man ci viene confermato dai nostri contatti nella striscia di Gaza che l'aviazione sionista sta lanciando dei volantini per incitare più o meno un centinaio di migliaia di Gazawi a lasciare le proprie case oggi, perché potrebbero essere oggetto e di bombardamenti e di un attacco via terra. Ovviamente la risposta di molti di questi è: uno, dove andiamo? Visto che la striscia di Gaza è una striscia chiusa e non è che uno decide, si sposta. Ricordiamo che in 260 km quadrati vivono 2 milioni di persone che appunto li fa stare un po' strettini, e quindi chiedere a 100.000 persone di andarsene nei territori di Zaitun e di Shejaia significa appunto dire: ok, rimanete dove siete perché non potete andare da nessuna parte, senza contare che i valichi sono attualmente chiusi, sia quelli con l'entità sionista sia quelli con l'Egitto, e ricordiamo inoltre che molta gente dice: no, io non voglio andarmene, perché andarmene significherebbe dire: ok, faccio lo stesso errore che hanno fatto i miei antenati nel 1948, cioè quello di lasciare la mia terra e di non poterci più tornare. E quindi questa è la questa è la situazione. Ricordiamo che questa operazione militare è solo vagamente legata all'omicidio di questi all'esecuzione di questi tre coloni, e che Israele nella sua storia non ha mai avuto bisogno di dover avere giustificazioni per attaccare la striscia di Gaza. Ricordiamo 2 anni fa, mentre noi eravamo a manifestare per lo sciopero generale europeo, e veniamo duramente repressi durante lo sciopero generale europeo, l'entità sionista quel giorno faceva partire una campagna altrettanto sanguinosa, durata una settimana, di bombardamenti senza provocazione alcuna. In quell'occasione venne fatto zompare in aria il dirigente delle brigate Ezzedine al-Qassam, braccio armato del movimento di resistenza islamico, la resistenza rispose e partì appunto la salva di distruzione e morte che tutti ricordiamo. Vi lasciamo a un breve stacchetto musicale, a una canzone patriottica del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. عملية نوعية ومخيفة استنى الوزير قاتل لازي ايفي عملية نوعية ومخيفة استنى الوزير قاتل لازي ايفي أقسمنا نتقر وفينا بعهدنا يا أبو علي يا نسر فلسطينة يا ويلك ويل يلي بتعادينا يا محلى الموت لجلك فلسطينة الجبهة حمرا ويا محلاها ونلوح بيها ونعلي لواها رايات الجبهة حمرا ويا محلاها ونلوح فيها ونعلي لواها بالدم الأحمر لونا راياتك على فكرة جبهة احنا اللي تربينا يا ويلك ويل يلي بتعادينا يا محلى الموت لجلك فلسطينة E ritorniamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento e analisi. Stiamo parlando di Gaza sotto attacco e diamo gli aggiornamenti. Oggi in questa decima giornata sono morte ormai 12 persone. Ricordiamo in primis la bambina di 3 mesi, Lama Mohammed al-Satri, che è cascata dalla finestra della propria abitazione ed è morta dopo che un'esplosione ha scosso il palazzo in cui viveva. Ricordiamo anche Ahmad al-Nawaja, che è morto dopo le ferite che ha subito ieri passando vicino a un bombardamento nella città di Rafah, nel sud della striscia. due persone sono state uccise in un attacco mirato in un'abitazione, dell'abitazione degli Abu Houda, Mohammed Ismail e Mohammed Abdallah, di 23-27 anni. Altre tre persone sono morte in un attacco a Bani Sheila, Khan Yunis, sempre nel sud della striscia. Probabilmente tre fratelli, leggendo i cognomi. Altre tre persone sono state uccise dopo che i veicoli militari sionisti hanno cominciato a sparare dei colpi di mortaio contro le abitazioni civili e le terre vicine alla buffer zone, che ricordiamo essere quella striscia di terra che Israele ha dichiarato essere zona di sicurezza nazionale, che impedisce alla gente di entrarci. Quindi ricordiamo Mohammed Sabri al-Dabari, 20 anni, Ashraf Khalil Abu Shanab, 33 anni, e Atta al-Amur, 60 anni. E ultimi due persone sono state uccise in un attacco all'abitazione al-Arjani, sempre nel sud della striscia, Khan Yunis, Abdallah Mohammed al-Arjani, di 22 anni, e Mohammed Sharrab. In tutto questo spiccano, insomma, la presenza del nostro stupendo governo, che nella persona del ministro Mogherini, l'amica dell'Ammazza Caffè, che è ministra che l'Ammazza Caffè ha tanto abbiamo una breaking news che in realtà arriva ieri sera. Secondo l'agenzia Shahab, pare che sia, no, è confermato che è morto, cioè che è stato abbattuto il primo sionista di questa guerra. A quanto pare è un militare che si occupava del rifornimento dei mezzi, rifornimento militare, rifornimento alimentare alle truppe del delle truppe sioniste, e quindi noi di questo ne siamo contenti. Dicevamo, il ministro Mogherini, che ha dichiarato in un tweet che ieri stava in Israele, già comincia male perché ricordiamo che Israele non esiste, ha iniziato la visita al centro Peres per la pace, che ricordiamoci essere uno strumento, un organismo di normalizzazione dell'occupazione della Palestina. Ricordiamoci che il signor Peres della pace non è mai importato nulla. Ora verso Ashdod, colpita dai razzi di Gaza, stasera a Ramallah con Abbas. Noi da questi microfoni chiediamo all'Ammazza Caffè di, visto che ha tutti questi contatti con la Mogherini, di fare qualcosa, di spiegargli qualcosa, perché evidentemente gli manca il contatto con la realtà. Contatto della realtà perché? Innanzitutto ricordiamo Centro Peres per la Pace, fondato appunto dallo statista, come lo chiamano israeliano, Shimon Peres, della sinistra, la cosiddetta sinistra laburista, che in varie talmente pacifista che in tutte le campagne che si sono svolte, le campagne militari contro i palestinesi, non ha mai mosso paglia, anzi si è sempre prodigato, come la sinistra istituzionale sionista, ad essere pacifista in tempo di pace e guerrafondaio in tempo di guerra, in nome della sicurezza nazionale. A noi questa gente non ci piace, oltretutto non ci piacciono i progetti del suo centro per la cosiddetta pace, che tende a rendere equidistanti l'oppressore e l'oppresso, a fare programmi con palestinesi e israeliani che così imparano a conoscersi e volersi bene, quando il problema in Palestina non è conoscersi e volersi bene, a conoscersi ci si conosce anche troppo. Il problema è che finché non ci si può voler bene, non si può non è la mancanza di un sentimento di amore reciproco che porta alla distruzione di quella stupenda terra e al genocidio del popolo palestinese, ma è la, il mancato riconoscimento da parte dei colonizzatori del, dei diritti elementari dei palestinesi, in primis il diritto all'autodeterminazione e al ritorno nelle proprie case, da cui sono stati sgomberati nel 1948 per far nascere quella colonia che la ministra Mogherini chiama Israele. Continuiamo con la rassegna critica del tweet della Mogherini, che dice che ora stava andando verso Ashdod, colpita dai razzi di Gaza, e noi la inviteremmo invece di andare verso Ashdod, che ricordiamo essere la città più vicina alla striscia di Gaza dopo il confine. Diciamo, bella mia, vattene a Gaza a vedere come i missili israeliani colpiscono i posti, perché i razzi di Ashdod fino ad ora hanno unicamente sventrato un edificio, tra l'altro senza nemmeno fare danni, e sono dei razzi fatti coi tombini dei tubi innocenti. Se vuoi andare a vedere qual è la sofferenza di questo conflitto, vattene a Gaza e guarda come stanno i ragazzini. E poi la sera se ne va a Ramallah con Abbas. Chi è Abbas? Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, quell'uomo che ricopre una posizione creatagli ad hoc dagli israeliani nel 93 e che in questi giorni di massacro, in questo mese di massacro del suo popolo, ancora continua a dire che la polizia, che non si può mettere in discussione l'accordo di collaborazione tra la polizia palestinese e la polizia sionista. Noi appunto, noi diciamo, consigliamo alla Mogherini di leggersi un libro di storia del Medio Oriente, o magari, senza arrivare a leggere la storia che magari è lontana, ricordiamo di leggersi Frantz Fanon, che sulla lotta coloniale ha insegnato un po' a tutte e tutti noi, e quindi magari nella prossima volta capisce meglio dove farsi le vacanze. In tutto questo però ricordiamo che, ok, giorni di massacri, ma che non vedono la resistenza inerme. La resistenza sta rispondendo, ovviamente, con l'ovvio squilibrio di forze in campo tra quella che può essere la resistenza offerta da un popolo sotto occupazione contro gli aggressioni di un popolo, di alcuni coloni tra i meglio armati del mondo, e noi vogliamo ricordare che sono stati lanciati quasi 2000 razzi dalla resistenza palestinese, da tutte le ali della resistenza palestinese, Hamas, il Jihad Islamico, il Fronte Popolare, financo anche ciò che rimane delle brigate dei martiri di Al-Aqsa legate a Fatah, e che possiamo dire che, come nel 2012, anche questa volta i sionisti si stanno mettendo paura, che da 67 anni i sionisti infatti sono abituati a sparare senza ricevere un colpo indietro, e questa volta invece la resistenza sta facendo squillare quotidianamente le sirene d'allarme non solo ad Ashdod e nel Naqab, cioè le zone più vicine alla striscia di Gaza, ma sono riusciti a far arrivare i propri razzi addirittura fino a Tel Aviv e fino ad Haifa nel nord dell'entità sionista. Non solo questo, Hamas ha dimostrato anche di avere aumentato le proprie capacità militari di resistenza con un'operazione che è avvenuta mercoledì o giovedì con con un tentativo di assalto ad una base militare israeliana posta nei territori palestinesi occupati nel 1948. Un comando navale di quattro resistenti si è armato di pinne, bombole da subacquei e fucili d'assalto, sono partiti sott'acqua, sono infiltrati nei territori occupati e hanno assaltato la base, trovando purtroppo la morte. Non solo, anche dalla Siria e dal Libano sono partiti alcuni razzi, però sono rimasti un esempio isolato. Vi lasciamo a un altro stacchetto musicale, sempre le canzoni patriottiche del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Questa è la canzone che sul 17 ottobre, giorno in cui la resistenza palestinese, le brigate del martire Abu Ali Mustafa, hanno esecutato, hanno abbattuto il ministro del turismo sionista Zevi. أقسم الأمين العام هدد أحمد سعدات أقسم الأمين العام هدد أحمد سعدات استنفار النصور لا جمع المعلومات استنفار النصور لا جمع المعلومات عن وزارة إسرائيل عن وزارة الموت عن وزارة إسرائيل عن وزارة الموت في ذكرى الأربعين سقطت ورقات التوت في ذكرى الأربعين سقطت ورقات التوت صابع باش اكتوبر زغرت كاتيم الصوت صابع باش اكتوبر زغرت كاتيم الصوت في فندق ريجنسي نفذ قرار الموت في فندق ريجنسي نفذ قرار الموت خطط مجدي خطط واقتحم الاوتيلات خطط مجدي خطط واقتحم الاوتيلات كتائب ابو علي جوازات مزورات كتائب ابو علي جوازات مزورات الاسمر والقرعان رداد باعلى صوت الاسمر والقرعان رداد باعلى صوت يا زيف الحقير والله اجاك الموت يا زيف الحقير والله اجاك الموت صابع طاش اكتوبر زغرت كاتيم الصوت صابع طاش اكتوبر زغرت كاتيم الصوت في فندق ريجنسي نفذ قرار الموت في فندق ريجنسي نفذ قرار الموت الأول في كل الإذاعات كان الخبر الأول في كل الإذاعات كتائب أبو علي تحترف الاغتيالات كتائب أبو علي تحترف الاغتيالات بالصفحات الأولى معرف ويديعون بالصفحات الأولى معرف ويديعون كانت صورة كبيرة لزق في التابوت كانت صورة كبيرة لزق في التابوت لجلك عيمك مبروك حدينا الدبابات لجلك عيمك مبروك حدينا الدبابات طلقة من مسدس قنص المخابرات طلقة من مسدس قنص المخابرات رد النصر سريع منتظروا ثاني يوم رد النصر سريع منتظروا ثاني يوم كتائب أبو علي جاب الطار المحتوم كتائب أبو علي جاب الطار المحتوم صابع طاش اكتوبر زغرت كاتيم الصوت صابع طاش اكتوبر زغرت كاتيم الصوت في فندق ريجنسي نفذ قرار الموت في فندق ريجنسي نفذ قرار الموت E ritorniamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento e analisi dalla Palestina occupata. E abbassiamo la cassa monitor e ritorniamo in onda appunto con le aggiornamenti dalla Palestina occupata. A chi ci magari qualche nostra affermazione sembrerà un po' dura, ma quando diciamo che siamo contenti per la morte di tre coloni, noi diciamo sì, siamo contenti per di tutto ciò. E come siamo contenti del fatto che abbiano schioppato ieri il primo soldato dall'inizio di questa campagna di repressione. Ricordiamoci sempre che purtroppo, per quanto possa essere brutta la morte di un essere umano, ricordiamoci sempre che una lotta contro contro una colonizzazione non guarda in faccia a nessuno. Ricordiamoci d'altronde che un grande modello per la sinistra italiana, quella che è stata la lotta di liberazione dell'Algeria e che tutti ricordiamo, e che tutti, anche la sinistra, possiamo dire quella pacifinta, celebra magari guardando il film di Gillo Pontecorvo, La battaglia di Algeri. Ricordiamo che la resistenza algerina ha liberato il proprio paese sia con le grandi manifestazioni di solidarietà, sia mettendo le bombe nei locali dei francesi. E quando la resistenza algerina faceva queste operazioni, di certo non andava a chiedere i documenti a tutti coloro che entravano nel bar, ma se c'erano donne, uomini, bambini, non gliene importava molto poco. Anche all'epoca i francesi dicevano: guardate questi brutti che mettono le bombe in giro, che sono terroristi, ma questo è quello che fanno anche oggi gli israeliani, e questo è il compito che fanno tutti i colonizzatori che devono difendere i propri diritti acquisiti. All'epoca, oggi un po' di meno, c'era una sinistra internazionale che diceva: no, quello è il loro diritto, quella è la loro lotta di liberazione e loro hanno il diritto di liberarsi con ogni mezzo necessario. Quindi auguriamoci che la sinistra si ritrovi al più presto a riscoprire, appunto, come diciamo prima, magari un po' di Frantz Fanon e un po' meno di Gandhi. E ritorniamo agli aggiornamenti dalla Palestina occupata, dove è notizia di 20 minuti fa che Hamas e il Jihad Islamico hanno offerto una tregua decennale all'entità sionista. Ieri i media sionisti e i media internazionali hanno lanciato la notizia di una tregua che era stata rotta da Hamas. Ovviamente i media non si sono premurati di andare a chiedere ai dirigenti di Hamas se avessero accettato una tregua, perché hanno dichiarato espressamente di aver saputo di questa tregua soltanto dai mezzi di informazione, non erano stati avvisati, e quindi ieri abbiamo assistito all'entità sionista che annunciava una tregua per poi violarla dopo 5 minuti. Invece qua, e tra l'altro con delle condizioni che erano più una resa che una tregua, e prevedevano il totale disarmo dei bracci armati della resistenza e di fatto il prosieguo dell'assedio su Gaza. Oggi appunto Hamas e il Jihad Islamico hanno mandato una proposta in 10 punti all'Egitto da inoltrare ai sionisti, almeno per quanto riporta il quotidiano in ebraico Maariv, che cita una fonte di alto profilo, senza citare chi. Il primo punto richiederebbe il ritiro ovviamente dei mezzi di terra dall'area di confine della striscia di Gaza e portarli a una distanza che permetta ai contadini di Gaza di avere accesso ai propri campi coltivati e ovviamente di coltivarli. La liberazione di tutti i prigionieri politici detenuti dopo il rapimento e l'esecuzione dei tre coloni sionisti, che ricordiamoci sono stati più di 300 in 2 settimane, inclusi quei prigionieri che erano stati liberati con il scambio di prigionieri con il soldato sionista Gilad Shalit. a questa condizione si aggiunge anche la richiesta di alleviare le condizioni di vita dei prigionieri palestinesi nelle carceri sioniste, che ricordiamo essere passati da 5 a 6.000 e che ultimamente si sono visti negare l'accesso allo spaccio del carcere, il divieto di leggere i giornali, il divieto di avere la televisione, e sono state limitate le visite, i colloqui parentali. La terza richiesta chiede che la fine dell'assedio sull'enclave costiera di Gaza, cioè la riapertura di tutti i valichi di confine e il permesso di far entrare i materiali di costruzione, che dal 2009, da quando c'è stata la grande distruzione collettiva, entrano a singhiozzo, oltre alla richiesta di far entrare ciò che il carburante per far funzionare l'unica centrale elettrica della striscia. La quarta richiesta richiede l'apertura dell'aeroporto e del porto internazionale della striscia di Gaza, e che vengano gestiti e monitorati dalle Nazioni Unite. Oddio, non so, l'aeroporto in questo caso, chi va nella striscia la prima cosa che vede è lo Yasser Arafat International Airport, che di fatto è sembra più un campo di bresciolino più che aeroporto, però vabbè. E inoltre Hamas e il Jihad Islamico hanno richiesto che l'aumento a 13 miglia nautiche della zona di libertà di movimento per i pescatori della striscia di Gaza, che ora sono confinati sulle 2 miglia nautiche. Inoltre si chiede il controllo del valico di Rafah, cioè quello tra la striscia di Gaza e l'Egitto, da parte gruppi internazionali provenienti da paesi amici e paesi arabi, e infine Israele deve rispettare un cessate il fuoco decennale, che include anche gli spazi aerei e la liberazione appunto dello spazio aereo di Gaza. In ultimo, ultimi tre punti sono il permesso per i residenti di Gaza di visitare Gerusalemme e pregare nella moschea di Al-Aqsa, e infine l'astensione da parte dell'entità sionista da qualsiasi bega interna politica palestinese, e infine la richiesta riaprire la zona industriale di Gaza, visto che uno dei principali obiettivi che è in questa, oltre ai grandi luoghi di ritrovo, sono in questo periodo proprio anche le attività industriali. Quindi non solo si bombarda chi si va a vedere la partita di calcio, ma si bombardano anche, ad esempio, il più grande pollaio della striscia di Gaza, che con 1.000 polli che davano centinaia e centinaia di uova e che erano fondamentali sia per l'occupazione interna sia per il sostentamento alimentare. E riceviamo, appunto, leggiamo sempre appunto dalle notizie arretrate dell'ultima due settimane, è andata in fiamme anche quell'obiettivo terroristico che è l'Arca di Gaza, barca che doveva essere riempita di prodotti d'esportazione della striscia di Gaza, e che voleva simbolicamente rompere l'assedio per dire: ok, voi non fate entrare le navi a Gaza perché avete paura che entrano armi. Noi diciamo che noi facciamo allora uscire una nave piena di sapone, olive, olio, miele, e barca già vittima di un attentato dinamitardo e che è stata distrutta lo scorso 9 luglio in un raid al porto. E noi ci salutiamo brevemente, vi lasciamo con un'altra canzone patriottica, Talu Talu Kataib, sempre del Fronte Popolare. Thank you. قاتل واحنا للفيدا جد عيده جرح رفيقو وفراقك يا جبريل ابد ما بعطيكو قاتل معاهم راح